Andrea e Morena in Per fare un branco ci vuole un lupo. Storie di specie non classificate. Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Per fare un branco ci vuole un lupo. Ben Eccola. Arrivati a tutti da Morena e da me Andrea, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo tra l'altro in mezzo a noi un ospite un po' particolare, nel senso è un ospite peloso, vi do qualche indizio. Cugino Hit. Non proprio, nel senso ha un po' meno peli di Cugino Hit, ha delle orecchie pendenti, un naso non tanto pronunciato ancora in questo momento, fa un po' pipì ovunque e frigna. Ma non è vero che frigna, lei sta semplicemente manifestando il suo dissenso al fatto che non la guardi e non ti stai dedicando a lei. Ah, okay. È comunque, una prima donna. Come sentite, questo frignare è uno dei nostri cucciolotti, di quelli che erano inizialmente nella panciotta di Soyala e oggi sono qua. E non qua. Diciamo prima ancora dove. Non erano ancora prima dove e in questo momento sono qua perché come... Perché oggi compiono un mese. Un mese di vita, quindi sì. Sono ormai belli attivi, come sentite dal frignare sottostante, in quanto in questo momento ce l'ho in braccio. E se lo morde frigna. Abbiamo una femminuccia in questo momento, la femminuccia che si chiama Artemide, che sembra tra l'altro un orsetto perché ha questo musetto che sembra veramente quello di un piccolo teddy bear. Insomma. Sì, e da due giorni ha deciso di scavalcare la recinzione e farsi degli ampi giri per la stanza notturni. Esatto, quindi va in giro, fa le sue esplorazioni e va bene così. Quindi abbiamo uno di questi cuccioli che ormai sono diventati... Beh, lei probabilmente sarà un'esploratrice, quindi... Quindi, essendo esploratrice, di cosa parliamo oggi? Vediamo se qualcuno di voi indovina. Silenzio, indovina. Non so, era una prova. Vabbè, andiamo sulla fiducia. Esatto, hai indovinato, è il Delta. È il Delta, benissimo. Che cos'è il Delta? Non è un'autovettura, intanto ti possiamo dire. Beh, anche se è Omega. Sì, esatto. No, l'Omega non era. Non è la nostra vettura. Mannaggia, devono inventarla. No, c'è, diciamo, una marca della Fiat, la Lancia, che utilizza tutte queste lettere particolari. E non ha utilizzato l'Omega? Io Omega mi ricordo qualcosa. Credo di no, non mi sembra... Non so se è il mio ego smodato o l'Omega mi ricordo. Vabbè, la Delta è quella più famosa, c'era quella integrale, l'Alfa. La Martini Racing. L'Alfa. L'Alfa Romeo, Alfa, appunto. Quindi, tendenzialmente, queste lettere vengono talvolta utilizzate. Anche da autoveicoli. Comunque sia, in questo caso non è un autoveicolo, il Delta di cui parliamo non è un autoveicolo, magari mi piacerebbe avere il Delta integrale qua nella macchina, quella l'evoluzione, quella, tanta roba. Detto questo, ok, parliamo del Delta. Chi è il Delta? Chi è costui? Chi è il Delta? Carta d'identità del Delta. Carta d'identità del Delta. Allora, nato il... No, scherziamo, scherzi a parte. Il Delta è la figura, una delle figure... diciamo più specialistiche del branco. Infatti il Delta, come sentite anche lei commenta questo aspetto, Artemide si chiama, il Delta è lo specializzato, colui che si iperspecializza in un determinato tipo di settore. Potrebbe essere il calciatore, buonanotte, quello che fa, che gioca a calcio, ad esempio. Ovvio, tra i lupi è la figura diffusissima. Il cacciatore. Con le castagne, no, per lei. Vabbè, il cacciatore, il cacciatore ad esempio di eccellenza, oppure altre figure diciamo in cui si iperspecializzano, come dicevamo prima, il Delta esploratore ad esempio, una falsissima diceria, una delle solite stronzate che ogni tanto vi abbiamo detto vengono pronunciate. Mi sono allontanato un attimo per posare Artemide subito. Come sapete è proprio il fatto che gli alfa, anzi... maschio, duro, puro e cattivo, è colui che conduce il branco perché sta sempre davanti e chi si ferma è perduto. È il dominante che morde chiunque lo guarda. Ecco, tutta questa serie di baggianate, ok? Non è assolutamente così, anzi, tendenzialmente chi sta in cima, diciamo, a una conduzione è proprio il Delta Esploratore che ha la capacità di orientarsi correttamente, di andare nei giusti luoghi e quant'altro. Soprattutto ritornare. Anche. Soprattutto ritornare, ma come se fossi te, nel senso, se devi decidere chi in un diciamo terreno che non si conosce deve condurre la tua famiglia, non credo che tu la faccia condurre a chi non ne sa una mazza. Immagino che tu lo faccia condurre a chi invece, insomma, ne sa. O no? Chi ha il dono di perdersi girando su se stesso. Infatti, ecco. Magari. Quindi il Delta è lo specializzato. proprio si specializza specificatamente in un determinato tipo di settore. Ed è un ruolo assolutamente fondamentale, in quanto l'alfa, che come abbiamo già visto è la figura che sa delegare, sa mettere ognuno in base ai propri talenti nel posto corretto, con il delta si trova proprio a suo agio in questo senso, perché caspita, può totalmente delegare delle parti, può delegare totalmente delle funzioni, disinteressandosene quasi, perché nel momento in cui io affido un delta specializzato, per dire in informatica, questo nell'aspetto più umano, in informatica tutta la parte informatica appunto della mia azienda, io posso disinteressarmene perché sono sicura che in quel momento viene seguita al meglio delle possibilità di questo delta, perché va in iperspecializzazione. Esattamente, infatti hai anticipato esattamente quello che stavo per dire anch'io, perché sono effettivamente sei preparata abbastanza, e quello che volevamo dire appunto era proprio il fatto che in effetti il delta nella parte lupoide è questo, quello che dicevamo, nella parte umana è colui che magari qualcuno di vostra conoscenza, oppure tu che ci stai proprio ascoltando in questo momento, oppure qualcuno nella tua azienda che si iperspecializza maniacalmente in un determinato tipo di settore, o in un determinato tipo di hobby, di sport, insomma qualcuno che fa di quello che gli interessa in quel momento e va a fondo su qualunque cosa. Per cui sa ancora prima che gli altri glielo chiedano, se vogliamo, no? Certo che sì. Quindi in sostanza si iperspecializza in maniera quasi maniacale, e difficilmente è semplice cogliere un delta impreparato su un certo tipo di discorso. Per cui, come diceva prima Morena, era proprio il discorso ad esempio della parte informatica, ma ad esempio potrebbe essere la persona che si occupa della gestione finanziaria, ad esempio, per cui di un'azienda piuttosto che di una famiglia, eccetera. La cosa migliore è avere un delta in quel caso che si iperspecializza, vuol dire che sa già tutto, sa come doversi muovere, come preparare un contratto, come preparare qualunque tipo di cosa che ovviamente fa parte della sua, diciamo, della sua mansione. Stessa cosa se ad esempio domani con tutta la tua famiglia, la tua azienda, dovete fare un viaggio, tendenzialmente chi dovrà andare ad esplorare sarà proprio il delta esploratore, che andrà in giro a verificare qual è il percorso migliore, quello magari più utile per arrivare a quel tipo di luogo, o quello migliore perché magari c'è una difficoltà, c'è un pericolo, insomma, roba di questo tipo. Beh, in riferimento al viaggio stesso, il delta che organizza un viaggio è maniacale nell'organizzarlo, sì, anche fastidioso, che sa esattamente dove far tappa, un pochettino Furio, se vi ricordate, nell'immaginario dei film commedie italiani. Ecco, sa esattamente dove fare tappa, quanto spendere, quanto costa la benzina piuttosto che il gasolio in quel determinato posto, quanti soldi portarsi dietro, quanta percentuale tenere come scorta, ecco. Diciamo che, per dirle in parole povere, diciamo che noi nel nostro branco deficitiamo un po' del delta, nel senso... Sì, io mi sento della parte più, umana, in parlo. Mi sento di più Magda con "non ce la faccio più". Esatto, quindi diciamo nella parte umana deficitiamo un po' di questa figura, anche se all'interno del branco noi abbiamo un delta che è proprio Naftalina. Sì, Naftalina nella sua gioventù ha fatto appunto la stravecchia Naftalina. Dai, non ma è no, stravecchia. Ma Naftalina era già vecchia condannata, non è che... Ma lei è meditabonda, non è vero? Aveva già 80 anni nel primo mese di vita, insomma. Allora, Naftalina è stata anche iperattiva un tempo. Sì. E semplicemente Naftalina era un cane di protezione civile con cui facciamo soccorso in superficie sotto macerie, ed era un cane iper specializzato in quello. Lei impazziva per fare questo tipo di lavoro, le piaceva tantissimo, soprattutto tendenzialmente più sotto macerie che in superficie, e mettevamo quello che era il suo talento a disposizione comunque del soccorso. Sì, quindi in sostanza lei si era iperspecializzata in quello, infatti ha tutte le caratteristiche in questo momento, poi come sapete, no, tendenzialmente invecchiando si prendono anche più, no? Nel senso gli aspetti negativi a volte, ma non sempre, e in questo caso diciamo che Naftalina ha preso un po' un aspetto negativo del delta, se vogliamo. Ma accentuato, semplicemente, accentuato. Gli aspetti ci sono già. Ecco, quindi per dirla, quindi torniamo al discorso, innanzitutto premettiamo quali sono i pregi e eventualmente i difetti di un delta, insomma, no? Il difetto del Delta è che... Ma parliamo per dei pregi, dai, almeno. Ah no, è perché abbiamo parlato finora dei pregi. Per riassumere. Allora, il pregio è che sicuramente è una persona affidabilissima nel suo ruolo. Nel momento in cui dai al Delta una competenza che è assolutamente nei suoi talenti, puoi star certo, ci vai ad occhi chiusi, puoi star certo che farà tutto il possibile, si informerà e andrà a studiare se per caso una cosa non gli torna, cioè sarà, è sicuramente la figura più affidabile sotto questo punto di vista. Esatto, per quello che invece riguarda i difetti, difetti li dico io che sai che sono sempre un po' più polemico, il difetto, qual è il difetto del Delta? Il Delta è che se non ben gestito e soprattutto non all'interno di un branco in cui ci sono dei buoni alfa che riescono a far sì che ci sia un buon spirito di corpo, che ci sia un'amalgama precisa in cui il Delta si sente a parte di qualcosa importante, armonia. Non era per così. E il Delta se ne inizia a sbattere un po', nel senso, il Delta ha questa caratteristica che può essere talvolta negativa di essere un po' un single rider, cioè vuol dire io so fare, tu scostati che lo faccio io, che lo faccio meglio sicuramente di te. Se vogliamo un po', alcune persone potrebbero dire quasi un po' di arroganza, in realtà non è arroganza, semplicemente che se il Delta non riconosce degli individui attorno a lui che possono essere proattivi e funzionali al branco stesso, cerca di sopperire lui con chiaramente un quasi essere solitario. Quindi il Delta tra tutti, diciamo, i ruoli è quello che più può tendere ad essere quel lupo solitario di cui vi raccontavamo già essere una gran baggianata. Non esiste un lupo solitario, esiste se c'è un disagio. Quindi in questo caso il Delta può essere un pochettino più solitario, un po' più autonomo, tra virgolette, nel momento che non riscontra attorno un branco di un certo tipo e un branco serio che possa in qualche modo determinare e portare avanti quelle che sono gli obiettivi appunto di una finalità specifica e quant'altro. Quindi in sostanza il difetto del Delta principale è determinato da una gestione non corretta del branco e da un po' essere tra virgolette un po' single rider della situazione. Allo stesso tempo, come diceva Morena prima, nel momento che all'interno di un branco corretto e in cui c'è una armonia particolare, ma il Delta è una figura su cui poter non contare di più, ok? Per cui, insomma, non ci sono problemi in questo. La cosa interessante... Senza escludere, comunque, scusa se ti interrompo, che il Delta si può anche specializzare in qualcosa che faccia star bene tutto il branco, se ben amalgamato. Certo. Ad esempio, avevamo un Delta in un gruppo precedente che adorava fare panini di tutti i tipi ed era specializzato nel fare panini. E lui andava a ricercare, che ne so, l'olio particolare piuttosto che il prosciutto particolare e faceva proprio dei panini fantastici per il resto del branco. Vero, vero, e infatti poi ci sono determinati tipi di... se mai vi creerete l'opportunità di entrare in diretto contatto con noi, quindi non solo via web, scoprirete che abbiamo tutta una serie di servizi di prodotti particolari, tra cui un test che è proprio il test Wolfpack, che va ad identificare il talento animale di ognuno di noi, quindi se è più alfa, delta, gamma, omega o beta, insomma. Ho tenuto il beta per ultimo. E in effetti il Delta ha tra l'altro una serie di specializzazioni proprio su quello che riguarda anche gli hobby che fa, insomma, per dire, se abbiamo un Delta che gli piace la montagna sarà iper specializzato nell'avere la tenda di un certo tipo montata in un certo modo, l'attrezzatura fatta in un certo modo. Non è detto che debba spendere per forza migliaia di euro, no, però, anzi, tendenzialmente il Delta sarà quello che andrà a cercare la marca sconosciuta che però fornisce prodotti migliori rispetto alla marca che è prima in lista, che è quella che ti fanno strapagare, la marca sconosciuta che non ti fanno strapagare, e si vanterà per quasi tutto il tempo di avervi fatto assolutamente, assolutamente sì, anzi anche perché magari per alcuni di voi il fatto di andare a cercare su internet in maniera forsennata quello che costa meno, che ha il maggior risultato, può essere un po' una noia. Ad esempio per me è una noia terribile, cioè mettermi davanti al computer, andare a cercare la cosa che costa meno, che però dà lo stesso risultato, vuol dire che mi debba probabilmente aprire 250 milioni di siti e mi rompo le scatole. Il Delta è diverso. non solo non dovrà aprire 250 milioni di siti, perché il Delta saprà già dove andare a vedere, e anche dovesse farlo, ovviamente è una cosa che lo diverte come un matto. Vogliamo dire per un Omega che cosa sarebbe aprire 200 milioni di siti dove ci sono un sacco di pubblicità, esatto, di altre cose, pop-up che sono che fuori. Poi ti trovi, che ne so, a guardare la gonna su Zalando mentre stavi cercando, esatto, la corda d'arrampicata, e nel frattempo vai a vedere che c'era una crociera interessante da un certo tipo di posto. Quindi insomma, sì, l'Omega è meglio lasciarlo perdere in questo caso. Il Beta probabilmente prende a testare il computer e l'Alfa demanda agli altri a farlo. Insomma, questo è un po' l'ordinamento. Vai avanti te, che a me scappa da, esatto, vedere. E in questo, tra l'altro, come sapete, forse ve l'abbiamo già raccontato oppure no, noi ci divertiamo anche un po' a prendere in giro tutti i ruoli. Il Delta tendenzialmente, per diciamo intrattenerlo qualora sia un po' molesto, magari un po' fastidioso talvolta, magari quando è stanco, roba di questo tipo, gli prendi una cassetta degli attrezzi, gliela butti a terra, gliela spargi tutta, e il Delta si divertirà a rimetterla a posto, precisamente con la chiave inglese va qua, quello con, come si dice, con la croce va in quel posto, quello con la croce, sì, vabbè, cacciavite a croce va in quel posto, cacciavite a taglio nell'altro posto, però dipende dalla lunghezza del cacciavite, perché sono quelli più lunghi e quelli più corti, quelli con diametro maggiore, quelli con diametro minore. Quindi insomma però saprà esattamente nel momento in cui deve fare una riparazione, in cui deve intervenire, saprà esattamente dove prendere, in quale cassettino, in quale sottoscompartimento andare a cercare la risorsa. Esatto, quindi il consiglio che vi diamo è: nel momento che avete a che fare con un Delta, o se siete voi un Delta, siete specializzati in quell'aspetto o qualcuno è specializzato in quell'aspetto, voi eseguite quello che dice il Delta, state in silenzio, zitti, eseguite meramente quello che dice il Delta senza proferire parola, e non chiedetegli posso aiutarti. Per il Delta il posso aiutarti è un affronto mostruoso, perché vuol dire che lui non è in grado di fare quella cosa da solo, cioè che voi non lo ritenete in grado di fare quella cosa da solo, e che il vostro aiuto potrebbe migliorare la riuscita. Questa è una roba proprio che fa diventare il Delta molestissimo. Allora, vi citiamo un esempio molto semplice. Noi, come sapete, abbiamo il nostro sito, www.trader.com, eccetera. Abbiamo, come vi dicevo, il test Wolfpack, il test, quindi le domande specifiche le abbiamo create noi. Poi, ovviamente, in questo ci deve essere una creazione di un form via web che automaticamente dà, attraverso un logaritmo specifico, un risultato su quelle che sono le percentuali. Cioè, già una cosa per me, già sto vomitando quasi a raccontarvi questa roba qua, nel senso, immagine. No, vomitando parole, nel senso, sì, è comunque un'immagine raccapricciante, ok, cioè. Okay. Sul computer, sai, no. In questo caso è la difficoltà, qual è stata? La difficoltà è stata che ovviamente la persona, il nostro carissimo amico che ci ha dato una mano a fare tutto questo tipo di attività, mi ha spiegato come poter fare questo tipo di lavoro. Alla terza domanda che gli chiedevo, che non avevo compreso ovviamente, perché non, cioè, su questa cosa per me è arabo, antico, aramaico, migliaia di anni fa, qualche impressione gota, esatto, e a un certo punto quello che mi ha detto: senti, fa, spostati, faccio io. Ecco, perfetto. Tanto vabbè, lui sa perfettamente di essere un Delta, su questa cosa ci abbiamo già lavorato, quindi ogni tanto quando mi dice queste cose ridiamo da entrambe le parti, perché sappiamo già che la situazione è così, nel senso, alla terza domanda dice: senti, mi sono rotto le scatole di insegnarti, spostati che faccio io, così almeno ci metto meno tempo e tu sei contento, basta. Quando quindi... ho provato a spiegare qualcosa a me del sito, ero persa a guardare i colori, quindi... sì, infatti, quindi come potete ben comprendere, dalla parte individuale nostra, cioè di esseri umani, deficitiamo di questo ruolo. Purtroppo Naftalina ormai è vecchia, quindi nel senso, ma lei era già vecchia. Ho capito, ma detto così sembra che abbia la zampetta nella fossa. Ma no, non ha la zampetta nella però fossa. Ha scoperto un altro tipo di specializzazione Naftalina, che è il trovare il posto più comodo della casa dove dormire. Ah, certo. Lei in una stanza è in grado di individuare in pochissimi secondi qual è il cuscino più comodo su cui appoggiare il sedere, il tappeto più comodo sul quale sdraiarsi, e in questo senso poi disinteressarsi del fatto che magari tu stai in piedi nel frattempo. Ah, sì, sì, perché ovviamente lei ha preso questo aspetto sicuramente meno che un po' quello del menefreghismo, se ne sbatte un po', diciamo, tra virgolette, no? E la cosa interessante invece, no, si è specializzata nell'essere la croce rossina di turno, questo c'è da dire, che lei sempre è poco attiva, devo dire, no, la stai descrivendo in generale, in modo veramente, ma vabbè, in generale è abbastanza dormigliona, no, tra virgolette. Con questa, sempre con questo musetto del tipo bastardo tu che mi abbandoni, insomma, c'è sempre questo, diciamo che sarebbe perfetta testimonial della campagna anti abbandono. Infatti, dovessimo mai, quando visto che noi viaggiamo spesso in autostrada, se tu la vedi passeggiare in autostrada o ferma seduta, dici ok, questa è stata abbandonata di sicuro. È da segnalare. La cosa invece che lei fa, come ormai si è specializzata in questo, è essere la Croce Rossina. Quindi se qualcuno di noi, sì, magari in quella giornata non è particolarmente una giornata allegra, non si sente tanto bene fisicamente o moralmente, cioè, lei deve prendere il suo, come si dice, deve iniziare a fare un po' la pirlotta, tra virgolette, diciamo. Gli attacca l'omeghitudine. Quindi inizia, viene lì, cerca di morderti il naso, tra virgolette, per giocare, inizia a fare la scemotta, inizia a farsi grattare, poi ti salta in braccio, insomma, cerca di tirarti su di morale, via. Salta sul posto, fa queste cose da cucciola quasi. Esatto, cosa che non fa nessuno degli altri nostri cani, neanche Soyala, che è un omega, fa questo tipo di... Soyala è più per lo stemperare, diciamo, le tensioni, tra virgolette. Soyala è anche un omega che comunque per sue vicissitudini, certo, è un omega un po' represso, quindi sta riscoprendo il suo ruolo e sta iniziando di nuovo a capire che cosa è il suo ruolo e, certo, il fatto di poterlo esercitare. Questo sicuramente. Quindi, diciamo che però, sì, in linea di massima, dei nostri ad oggi non c'è nessuno che si comporta. No, lei è più... Soyala è più della serie mordetemi tutti. Esatto. Più addosso che... Duma anche fa un po' il pirlotto, come sapete, in realtà lui fa il pirlotto sempre, cioè con noi, cioè quando lo conosci diventa un diventa Sidney Bravo. Invece Naftalina ha proprio questo suo compito, questa sua missione, cioè, di vita. Scusa, hai parlato di tutti tranne che di Cheyenne. Vabbè, Cheyenne è proprio l'opposto contrario, tanto ne parleremo nel Gamma. Ma lei è contenta di stare con noi H24 sempre e ha questa missione di doverti lavare la faccia, perché secondo lei la tua faccia sarà sempre sporca. Quindi è ovvio che ti dovrà sempre lavare la faccia, sempre, H24, anche questo. Quindi la devi un attimino a volte, tipo con l'arletto, basta, scherzo. No, Cheyenne ha anche detta Ciubecca perché ha questo modo di chiacchierare tutto il tempo. Comunque avremo modo di conoscerla nel prossimo appuntamento. Sì, diciamo che vabbè, Morena ha questo aspetto che io condivido poco, che è quello di dare più nomi ai cani, ovvio che poi sono un po', dice qui, no, nel senso... Perché sono tutti i loro aspetti, tutte le loro, sì, caratteristiche, capito, appunto, vengono rappresentate. Ha capito, allora Cheyenne dovremmo chiamarla con 40 nomi differenti, perché lei prova una serie di emozioni, tutte assieme peraltro, quindi è parte dal... Ti amo da morire, ti odio, sono felicissima, tristezza mostruosa. Qui insomma è un po' particolare, Cheyenne è un cane a cui... vogliamo bene dell'anima proprio perché è così, in realtà. L'unico aspetto che detestiamo è proprio questo suo frignare costante. Per il resto è un... Io la adoro. Il momento in cui non frigna è il momento in cui le fai fare qualcosa. Lei adora fare qualcosa. Le piace il fatto di... Ok, stiamo facendo qualcosa insieme. No, stai io chiedendo ti blocco a me su qualcosa. Questo perché a volte anche quando si fa qualcosa lei frigna lo stesso. Uff, ma è con te. Vabbè, che c'è. È con te che fa qualcosa. Comunque, tornando al Delta specializzato, quindi a Naftalina. Naftalina è, come dire, un cane di questo tipo, quindi lei per speciale adesso si è specializzata in quello. Tra l'altro, una cosa che non abbiamo mai raccontato è che ognuno dei nostri cani ha un colore specifico del collare. Ebbene sì. Ebbene sì, infatti abbiamo il Beta, che è Doom, che col colore arancione. Colori rosso e arancio. Rosso e arancio, perché manifesta proprio l'energia, eccetera, eccetera. Dopodiché abbiamo invece Soyala. In realtà arancio perché si è mangiato quello rosso, però sì, vabbè. Questo è un dettaglio. Comunque, Soyala invece ha un collare lilla, che rappresenta proprio la pacatezza, l'equilibrio e tutta una serie di fattori. Naftalina ha il guinzaglio verde. Verde quindi rappresenta speranza. Comunque rappresenta proprio l'anima un pochino più del Delta. E invece Cheyenne ha un collare multicolore, cioè c'è tutto un po' assieme, quindi è un collare, sembra tipo in stoffa quasi, ah, sembra indiano, è indiano. Una trama indiana, comunque una trama indiana. Un trailer, vabbè, basta, una battuta. Comunque è un... vabbè, i cuccioli, no, stanno mettendolo dura prova. Sì. E dicevamo, quindi ha questa trama indiana e quindi rappresenta un po' tutta una serie di colori, quindi c'è il rosso, l'arancione, il ha bianco, tutti i colori insieme, il nero, il verde, e la rappresenta perfettamente, e lei è il suo, è proprio il suo, quindi ognuno di loro ha un suo collare. Vedremo adesso i cucciolotti che cresceranno, intanto dove andranno, quindi chi li adotterà e chi li adotterà e poi vedremo anche, insomma, colei che terremo con noi, che non sappiamo ancora chi, che collare poi daremo, insomma, però sono cuccioli e quindi come cuccioli stanno sperimentando diversi ruoli. Stessa cosa che avviene per gli esseri umani. I cuccioli noi come esseri umani li consideriamo fino all'età di 18 anni. Fino all'età di 18 anni per noi gli esseri umani, all'interno del branco, della gestione del branco, del lavoro che facciamo, sono considerati considerati, chiedo scusa, sono considerati cuccioli. Dopo 18 anni. Dici vomito parole, se no, avere il singhiozzo. No, mi è andato per attraverso la saliva, niente. Ah, okay. E, va bene, detto questo, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa. Aggiungere qualcosa? Fantastico, arrivederci al prossimo episodio. Vabbè, okay. Il prossimo episodio parleremo dell'ultimo ruolo del branco e poi parleremo di tante altre cose, ma ci sembrava giusto iniziare proprio con una botta di questo tipo in cui si parla dei diversi ruoli per adattarli. Quindi, come già vi dicevamo, vi suggeriamo di guardare attorno alle persone che avete, familiari, aziende, eccetera, e provare ad identificare qual è il ruolo che più si adatta a una di queste persone. È un giochino, ovviamente, senza avere grandissime conoscenze, ovviamente, perché non siete esperti in questo, però è un giochino sicuramente interessante e divertente. Detto questo, ci risentiamo il prossimo appuntamento in cui parleremo dell'ultimo ruolo, non per importanza, ma l'ultimo ruolo appunto del branco stesso, che è il Gamma. E per questa giornata vi salutiamo, vi ringraziamo della vostra attenzione. Per qualunque tipo di informazioni, se volete contattarci, quindi fare un lavoro specifico, un lavoro al di fuori della media, un lavoro sicuramente particolare, un lavoro di branco, esatto, potete contattarci sul nostro sito, che è www.andmoretrainer.com, scritto andmoretrainer.com. Ci potete contattare, lì troverete tutta una serie di informazioni. Tra l'altro abbiamo aperto altre sezioni che sono proprio legate, oltre che l'attività di branco, che può essere fatta per tutti, quindi aziende, persone che non hanno animali, eccetera. Abbiamo aperto due sezioni specifiche, che sono proprio quella della cinofilia, quindi dell'educazione cinofila per chi invece ha un cane, e invece l'altra sezione è dedicata alla falconeria, proprio per persone che hanno desiderio di entrare in contatto con questi meravigliosi animali e, perché no, diventare anche loro falconieri e, insomma, qualcosa di diverso, insomma, no? Che dici? Innanzitutto conoscere, esatto, questo fantastico mondo. Esatto, quindi se non vi beccano o non vi artigliano, no, non so, questi luoghi comuni. Detto questo, vi auguriamo una splendida giornata, a risentirci al prossimo appuntamento. Alla prossima! E con questo la nostra puntata finisce qui. Alla prossima, da Morena e Andrea. Ciao!